se l'inchiostro scende porto l'asfalto nel sangue. Scrivo versi tra fiamme per ogni stella che langue. Hey, cresciuto in strada laddove l'odio confonde. Sono mille domande ad un cielo che non risponde. Man, insegue il mondo tra il vento delle stagioni. Fra, scrive il suo nome tra il cielo di quei balconi. Milano, il cielo eclissa la strada per quattro anime. Fra, cresciuto al parco teneva segreti lacrime. Sogni il nome tra le stelle, non lascia che si disperda. Vuole una vita migliore, fa evadere dalla merda. Aveva ali di ghiaccio, occhi schiavi del gelo. Cresceva solo fra laddove i palazzi toccano il cielo. Sogni una vendetta alata per stringere banconote. Poi via dalla gente sbagliata, forgiare note. Lui vuole stringere il sole per scriverne sui deserti. Ma so che un uomo vero sogna solo ad occhi aperti. Stringimi più forte, fallo fino a domani. Lascia che i miei sogni adesso volino lontani. Per non abbandonarmi, tieni strette le mani. Domani stringimi più forte, fallo fino a domani. Lascia che i miei sogni adesso volino lontani. Per non abbandonarmi, tieni strette le mani. Domani dedicata a tutta la gente vera, a chi ha ancora occhi per sognare, a mio fratello Rio. Fra, niente speranze, sa che la strada è l'unica. Vuole scuotere il pianeta ma farlo con la sua musica. Sa che tutto il mondo sopra le sue ali rotte. Qua sorride fra ma piange solo la notte. Man, sotto se passa carezzava l'asfalto. Sa bene che deve stringere i pugni e volare alto. Sogna un mondo diverso, vuole luce sulle strade. Quel fra adesso un uomo asciuga il volto di sua madre. Man, c'era speranza negli occhi del ragazzino. Sa che può cambiarlo fra forte il suo destino. Sono ombre senza volto, poi lune da accendere. Sa che la sua sera tornerà di nuovo a splendere. Stringimi più forte, fallo fino a domani. Lascia che i miei sogni adesso volino lontani. Per non abbandonarmi, tieni strette le mani. Domani stringimi più forte, fallo fino a domani. Lascia che i miei sogni adesso volino lontani. Per non abbandonarmi, tieni strette le mani. Domani.